Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete ritornati nel consueto spazio di 451 intersezioni, trasmissione radiofonica legata alla ricerca musicale, all'esperimentazione, ogni forma di avanguardia nell'ambito della musica sperimentale. Mi devo scusare perché anche giovedì scorso purtroppo non sono stato qua presente in radio, dunque la puntata per i tantissimi, immagino, affezionati di 451 intersezioni non è andata in onda, ma stasera ovviamente siamo qua, come sentite dalla diretta radiofonica, e un saluto ovviamente, una buona serata da Elisio Scarpa che condurrà questa puntata di 451 intersezioni. Un saluto anche al mio compagno e amico di tante avventure e disavventure radiofoniche, non solo, Max Macchia, che ieri ha ben condotto lo spazio di 451 frammenti sonori, dedicando oltretutto e omaggiando il nostro amico compagno scomparso 2 anni fa, Pier Antonio Pezzinga. E chiaramente vi ricordo prima di tutto il nostro blog No Blog, dove potrete trovare tutte le informazioni inerenti al nostro progetto collettivo radiofonico 451, che adesso si dipana anche sul nostro blog No Blog in 2 finestre, una 451 frammenti sonori, l'altra 451 intersezioni. Andate sempre su 451 frammenti sonori, scusate, .noblogs.org, e troverete tutte le informazioni delle puntate passate, presenti e future del nostro spazio radiofonico. Ricordo sempre, 451 frammenti sonori va in onda ogni mercoledì notte sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 11 di sera circa fino all'1 circa di notte, mentre lo spazio di stasera, 451 intersezioni, sta proprio a cavallo tra il giovedì e il venerdì, ma ufficialmente giovedì notte dalla mezzanotte fino all'1:30 circa della nottata. E chiaramente l'ho già citato in partenza, 451 intersezioni, come ha fatto già ieri notte Max Macchia con 451 frammenti sonori, dedicherà e omaggerà Pier Antonio Pezzinga, che ricordo è stato nostro amico e compagno e anche collaboratore non solo musicale e radiofonico ma anche politico. Entreremo poi nello specifico nel corso della puntata di stasera, ma è stato conduttore soprattutto qua a Radio Città Fujiko per molti anni e anche in altre radio passate molti anni fa, dello spazio Intersezioni, trasmissione musicale che è andata in onda per molti anni su queste frequenze lunedì notte, anzi sera, dalle 20 alle 21. Anche lui appassionato di musica sperimentale, di ricerca, di avanguardia, soprattutto amante di un certo jazz sperimentale, di una certa improvvisazione, ma anche di musica classica contemporanea e solo in parte, in alcuni casi, di una certa elettronica. Ma molti gusti e molte preferenze di Pier Antonio accomunavano anche noi, tant'è che avevamo già pensato di collaborare 2 anni fa, prima che purtroppo avvenisse la sua prematura scomparsa abbastanza assurda e pazzesca, che l'ha portato via. E noi chiaramente abbiamo voluto continuare a ricordarlo anche attraverso l'idea di costruire questo nuovo spazio 451 intersezioni, che ricordava e che ricorda ovviamente anche il suo progetto radiofonico. In questa puntata di stasera l'idea era stata quella, diciamo, di declinare il ricordo di Pier Antonio in questo caso, in questa puntata, non come abbiamo fatto un anno fa, un anno dalla sua morte, che è avvenuta il 21 marzo del 2014. Un anno fa abbiamo proprio mandato un'intera puntata registrata di Pier Antonio di mesi, di alcuni appunto anni prima, ma abbiamo deciso, diciamo, di costruire una sorta di omaggio ricordando invece l'altra parte molto importante della sua vita personale e della sua esistenza, cioè la parte politica, la parte dell'attivista rispetto appunto alle battaglie a difesa di lavoratori, precari, disoccupati, immigrati, ma soprattutto anche negli ultimi anni si era concentrato oltretutto insieme al sottoscritto nella costruzione di comitati di quartiere, di comitati a difesa anche del territorio, dell'ambiente, soprattutto nei confronti di tutti i progetti di devastazione, passando dal passante nord, scusate il gioco di parole, fino ad arrivare a tutta una serie di costruzioni abitative inutili, a devastazione di spazi verdi, territorio sottratto proprio all'ambiente e portato a profitto. In questo senso la puntata di stasera si declinerà musicalmente con questo tema, territori e profitto, proprio la devastazione del territorio e la privatizzazione di questo territorio in un'ottica ovviamente capitalista. La nostra logica è sempre stata quella anticapitalista, il nostro taglio è sempre stato quello legato al movimento antagonista bolognese nazionale e in particolare a quello autonomo che ci accomunava, e lo stesso Pier ha portato avanti per tanti anni la sua militanza politica. In questo lo ricordiamo in questa forma, attraverso una forma di narrazione musicale, attraverso vari autori che si muovono sulla scia musicale, che può raccontare, può, diciamo, dare una sorta di fiaba sonora, anche se può essere più che una fiaba, una sorta di racconto horror sonoro rispetto alle devastazioni che soprattutto il nostro paese, l'Italia e anche la regione Emilia-Romagna ha subito in questi ultimi soprattutto 30-40 anni, anche se l'opera di devastazione territoriale ormai parte da decenni, ma molti decenni or sono. Chiaramente in tutte queste battaglie legate alla difesa del territorio e denunciando la devastazione territoriale ci sono molti movimenti che ormai hanno preso una certa scena mediatica e politica importante, dal movimento No TAV al movimento No MOS in Sicilia, ma soprattutto ad esempio ultimamente uno dei temi più sensibili è quello riguardante il referendum prossimo che sarà ad aprile proprio contro le trivelle, il famoso referendum anti-trivelle che si basa appunto sulla sorta di divieto di qualsiasi operazione di estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa. Questo è molto importante perché è un referendum che praticamente è completamente nascosto ed è boicottato in maniera molto chiara dai media, dai poteri forti che ovviamente dietro questi provvedimenti di estrazione di idrocarbure puntano moltissimo in termini di profitto, di speculazione, ma in realtà questo referendum è importantissimo per dare voce appunto anche alla popolazione contro questo tipo di speculazione. Appunto è il 17 aprile che dovrebbe essere questo fatidica giornata di referendum, dunque io lo ricordo perché almeno qualche radio alternativa o fuori dai contesti mass mediatici dominanti possono farlo, e dunque chiaramente tutti questi movimenti fanno parte di tutta un'area che si oppone a un'idea di società, di costruzione e di profitto e di speculazione sul territorio che è un modello economico, sociale, politico e dunque anche ambientale e territoriale che un certo capitale vuole portare avanti, ma mentre ci sono movimenti ovviamente popolari di base che si oppongono. E dentro quest'idea, dunque, ricordo ancora la puntata perché sennò me la perdo anch'io, il tema della puntata è territori e profitto, racconto della devastazione capitalistica dei territori, e partiamo da una formazione, poi andremo verso il finale a fare questo piccolo omaggio a Pier Antonio Pezzinga, ma intanto apriamo la puntata musicale di stasera ascoltando uno splendido disco uscito nel 2013 di una formazione che noi di 451 conosciamo molto bene, che amiamo anche particolarmente. Si tratta del Quartetto d'Archi, che ha lavorato con tantissimi musicisti contemporanei, non solo nell'ambito della musica sperimentale ormai da decenni. Sono gli Arditti String Quartet, che insieme a un altro compositore di musica contemporanea geniale e pazzoide come Toshio Osokawa, musicista che ha già attraversato passato 451 frammenti sonori e 451 intersezioni, fa uscire questo album della Vergo, etichetta importantissima della scena della musica contemporanea, nel 2013, intitolato Silent Flower String Quartets. Un album bellissimo, e ascolteremo una traccia che racconta, appunto, con i colori, con il linguaggio della musica contemporanea, in maniera anche plumbea, scura ed inquietante, quello che potrebbe essere un racconto di un'idea, di una anche costruzione oggettiva di quello che viene rappresentato con la devastazione dei territori, con la cementificazione, con la messa a profitto del territorio, che è uno degli obiettivi del capitale in questa epoca storica. Andiamoci anche ad ascoltare e apriamo dunque questa serata dedicata appunto ai territori e allo sfruttamento legato appunto al profitto. Arditi String Quartet, Toshio Osokawa, Silent Flowers String Quartet. Thank you. Siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato, ricordo ancora, Toshio Ozokawa e Arditi Quartet dall'album Silent Flower String Quartets, uscito per la Vergo nel 2013, e non abbiamo iniziato così casualmente, nel senso che proprio gli Arditi String Quartet, formazione veramente importantissima della scena musica contemporanea e non solo, comunque sempre in primo piano, insomma, nell'ambito della musica di ricerca sperimentale, non solo legata alla contemporanea, perché gli Arditi String Quartet hanno collaborato anche con musicisti di musica elettronica, improvvisativa, insomma, hanno portato avanti sia interpretazioni di grandi autori, ma anche collaborazioni con altri grandi autori e gruppi anche emergenti. Formazione estremamente aperta alle contaminazioni, alle ricerche, alle sperimentazioni, e si mette anche molto in gioco, pur avendo una formazione accademica piuttosto forte, ma il progetto degli Arditi String Quartet ormai da anni riesce a portare, diciamo, gli archi, questo quartetto d'archi, in prima linea in moltissime composizioni fondamentali. Non le abbiamo, diciamo, inseriti proprio all'inizio della trasmissione senza una motivazione, perché è legato al concerto che ci sarà proprio a Forlì sabato 9 aprile 2016 dalle ore 21 al Teatro Comunale di Forlì in piazza di Montefeltro, un evento che è stato appunto organizzato dall'area sismica locale, che porta avanti non soltanto concerti ma progetti musicali da ormai decenni, cui siamo oltretutto anche in collaborazione, amici, e abbiamo collaborato anche per la costruzione di concerti e collaborazioni varie con l'area sismica, noi del network, possiamo usare così, del progetto collettivo 451, declinato in 451 frammenti sonori, 451 intersezioni. E in questo caso appunto l'area sismica ha organizzato questo concerto dedicandolo a Pierantonio Pezzinga, con cui abbiamo anche aperto la puntata di stasera, che stiamo ricordando a 2 anni dalla sua scomparsa. Anche l'area sismica gli amici e compagni dell'area sismica avevano una collaborazione stretta con Pier Antonio, lo conoscevano molto bene e stanno portando avanti ormai anno per anno l'organizzazione di un concerto evento in ricordo di Pier Antonio. L'anno scorso ci sono stati i mitici e fondamentali anche nel suo percorso musicale personale di Pier Antonio, formazione storica degli Erico, adesso ci sono gli Arditi String Quartet, altra formazione che amava moltissimo Pier Antonio Pezzinghe, dunque l'abbiamo voluti mettere proprio all'inizio per ricordare questo concerto. Se volete avere informazioni, soprattutto informazioni legate alla prevendita dei biglietti, potete andare sul loro sito www.areasismica.it e troverete tutte le informazioni per poter appunto prenotarvi o prendere un biglietto già in tempo, essendo un evento e speriamo sia anche molto partecipato. Sabato 9 aprile, ricordo ancora, 2016, dalle ore 21, Arditi String Quartet in piazza di Montefeltro, teatro comunale di Forlì. Bene, continuiamo il nostro percorso di questo racconto sonoro orrorifico, perché purtroppo si tratta di un tema non certamente positivo, quella della messa a profitto dei territori, della devastazione territoriale, cementificazione e quant'altro, da quello che sta succedendo ormai da anni col progetto della Torino ad alta velocità, della Torino-Lione, della TAV, ma quello che è successo anche col Mose a Venezia, quello che sta succedendo col MUOS in Sicilia, con questi sistemi appunto connessi satellitari a impianti collegati ovviamente anche a progetti di morte di armi connesse alla NATO in Sicilia, e anche soprattutto il referendum che ci sarà ad aprile contro le trivelle, il famoso referendum anti-trivelle legato appunto alla trivellazione a distanza molto ravvicinata dalle coste marine per la ricerca di idrocarburi e l'estrazione conseguente. Dunque tutto ciò che insomma si sta muovendo anche nel territorio della mobilitazione, del movimento in generale che cerca di mobilitarsi, di bloccare questa speculazione, questa distruzione sistematica che ormai sta veramente mangiando metro per metro il nostro territorio, il nostro paesaggio, le nostre terre legate appunto all'Italia, che splendide, ma che sono sempre più cementificate, distrutte e inquinate, perché poi c'è tutto il settore legato ai rifiuti, allo scarico dei rifiuti, ai rifiuti tossici, a tutto quello che è stato il business in questi anni. Insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma potremmo parlarne per ore e ore e ore. Pier Antonio ne parlava spesso anche nel suo programma Intersezioni anni fa, prima appunto di andarsene. E continuando il nostro percorso, andiamo ora a spostarci dal territorio della musica contemporanea per addentrarci dentro invece un altro territorio, quello legato più esclusivamente al noise, al free improvisation e anche un certo tipo di jazz con connotazioni anche ambientali. Questa volta troviamo un album con vari autori, tra gli autori più importanti della scena musicale sperimentale elettronica dell'improvvisazione radicale di questi ultimi 15 anni: il grande Mika Vaino con il grandissimo Kevin Drum, Axel Dorner, Lucio Capece, con l'album Venexia, uscito per la PAN nel 2012. Abbiamo selezionato una traccia che può raccontare in un'altra diramazione, in un'altra declinazione, la devastazione territoriale, dunque la messa a profitto del territorio. Ascoltiamoci dunque ancora questo flusso costruito da questo progetto collettivo di Mika Vaino, Kevin Drum, Alex Dorner e Lucio Capece, Venexia, dall'etichetta PAN, album del 2012, e ovviamente, come dico al solito, buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido flusso sonoro, molto articolato, con aspetti legati al rumorismo, ma anche dimensioni proprio compositive piuttosto particolari. In questo caso, questo progetto, ricordiamo ancora Mika Vaino, Kevin Drama, Axel Dorner, Lucio Capece, nell'album Venex, oltretutto un disco in copie limitatissime, si muovono appunto sulla sperimentazione più totale, musica frequenziale, rumorista, ma anche dimensioni che possono ricordare un'elettronica molto legata anche a un'idea concettuale connessa alla contemporanea. Ma sicuramente la cosa che emerge di più è soprattutto il suo legame rispetto al tema di stasera, quella della devastazione dei territori. Sembra quasi che attraverso questo percorso sonoro i musicisti riescono a rappresentare quasi il suono della devastazione attraverso i macchinari, attraverso l'estirpazione proprio del territorio, dell'ambiente, della natura, attraverso appunto tecnologie e macchinari che tendono appunto a distruggere, poi conseguentemente costruire. In alcuni momenti, quando l'aspetto noise viene ancora più esaltato e marcato, sembra quasi di ascoltare una sorta di trapano virtuale che attraversa il suono e il percorso sonoro di questi autori. In questo senso stava perfettamente dentro questa narrazione sonora di un'idea appunto connessa alla devastazione del territorio e alla messa a profitto dell'ambiente. E dopo Vaino, Drum, Darner e Capece ci andiamo ad addentrare in un territorio invece più legato, almeno a livello di radici, anche alla musica industriale, che poi spesso anche nel passato anche piuttosto remoto, già dagli anni 70-80, raccontava attraverso il linguaggio musicale dell'industrial proprio la distruzione dell'ecosistema, la distruzione particolarmente dell'uomo dentro la connessione con la metropoli. Raccontava delle fabbriche dismesse di moltissime città, soprattutto inglesi ma anche americane, nella fase appunto del post-fordismo, la dismissione, dunque questi scheletri, queste fabbriche abbandonate, la conseguente anche ricostruzione, devastazione in altri territori, abbandonando territori già devastati in una sorta di oblio perenne di questa terra, senza, diciamo, rigenerare o risanare il territorio che era già stato devastato, una sorta di corsa da parte del capitale, del profitto, verso una devastazione continua, fino a che non c'è proprio terreno, terra e dimensione da mettere a profitto. Poi in futuro molti film di fantascienza lo raccontano, quando il mondo comincia a essere, diciamo, succhiato nel suo profondo, in tutte le sue risorse, poi si cercherà in qualche altro pianeta di riportare questo modello industriale capitalista anche in altri pianeti. Questo lo raccontano moltissimi romanzieri fantascientifici, ma anche molti film di fantascienza. E ora ci spostiamo a raccontare ancora la devastazione territoriale ambientale attraverso invece il linguaggio e il percorso, come vi ho accennato, che affonda le sue radici nell'industrial, ma si sposta ovviamente anche nel noise e in alcuni momenti anche una dimensione ambientale piuttosto scura e plumbea. Andiamo a trovare un autore giovane, nel senso che ha fatto uscire finora un unico album, Traditional Music of Notional Spaces, volume 1, sempre per la PAN, nel 2013. Si tratta di Rashad Becker, che in realtà ha fatto per molti anni l'ingegnere del suono per moltissimi progetti musicali e per moltissimi autori, finché non si è addentrato, devo dire anche con ottimi risultati dal punto di vista sonoro ma anche compositivo, dentro appunto alla scena della composizione, facendo uscire questo album sicuramente interessante, che sta perfettamente dentro anche il racconto di questa serata. Anche aspetti dronici chiaramente dentro questo album, e noi andiamo ad ascoltare due tracce per continuare il nostro percorso dentro questo universo, e anzi dentro questa terra, questo mondo piuttosto dilaniato da queste devastazioni. Andiamoci ad ascoltare Rashad Becker, Traditional Music of Notional Spaces, volume 1. Buon ascolto, album uscito, questo lo devo dire, nel 2013, sempre per la PAN. Thank you. Thank you.